sole si nasconde sempre più. Le tue mani fredde, occhi chiusi e stanchi, scompariranno ancora e ancora un po'. Sei sola rimasta, di una specie estinta, nata dalle mie fantasie, vittima di un sogno e magari di un dovere, così io t'ho fatta mia. Solo con la fantasia puoi provare ad andar via. She said.